Radio 24 Reportage. Azzardo e frodi. Un piano d'azione europeo che guarda l'Italia. Di Alessandra Schepisi. In tutta la sua vita quanto ha perso? Quando mi faccio questi conti vado in depressione. Mi creda, mi sono mangiato... Non lo so cosa mi sono mangiato, non glielo voglio neanche dire che mi sono mangiato. Salvatore è un giocatore d'azzardo, pentito, è in cura presso una comunità dopo aver dedicato tutta la sua vita al gioco. Vuole guarire dalla sua malattia, si chiama ludopatia, colpisce 800.000 italiani, ma altri 2 milioni sono a rischio e lo Stato spende per curarli tra i 4 e i 5 miliardi di euro l'anno. Ma il gioco d'azzardo è anche un'industria che non conosce crisi. La terza impresa italiana, con un giro d'affari di 86 miliardi l'anno, il 4% del PIL, a cui bisogna aggiungere 15 miliardi del mercato illegale. Di questo parliamo in questo reportage di slot machine, di nuovi giochi online, giochi diabolici o business vantaggioso. E se vantaggioso, per chi? Ma ripartiamo dalla storia di Salvatore. Quando hai iniziato a giocare? Ne ho 52. Ho iniziato che avevo 16-17 anni, quindi ti lascio immaginare, stiamo parlando di 35 anni che gioco. Che tipo di gioco faceva all'inizio? Ah, guardi, all'inizio le parlo di 30 anni fa, dove io sono, che io vengo dalla Sicilia, si giocava solamente nelle bische clandestine, solamente a baccarà, poker, a scala 40. Si giocava perché ti piaceva giocare. Per vincere, insomma, per sperare di arrotondare. Si giocavano i soldi, sì, certo, certo. Poi dopo, mano a mano, che succede? Che la frequenza diventa maggiore? Ma guardi, poi succede che tu ti organizzi la tua giornata, anche il tuo lavoro, in previsione che tu il pomeriggio o la sera vai a giocare. In questo gioco vinceva? Diciamo, erano più le perdite delle vincite, come funzionava? Come mia testimonianza le posso dire che a quei tempi, con quel tipo di gioco, c'era la settimana che si vinceva, c'era la settimana che si perdeva, ma tutto sommato non ci si rovinava. Poi invece che cosa ha cambiato? Niente, poi con l'evoluzione, lei capisce, sono nate tante altre situazioni che ci hanno fregati a tutti, in poche parole, dalle corse dei cavalli, alle scommesse, alle slot, che hanno fregato tutti. Qual è il gioco che l'ha fregata di più? Ultimamente proprio sono stati questi maledetti VLT che ti prendono e io ho buttato un mare di soldi. In tutta la sua vita quanto ha perso? Penso di aver perso un 500.000 euro. Quando si perde, cioè qual è il primo, qual è la sensazione? Tu sai che il giorno dopo di nuovo devi procurarti i soldi per andare di nuovo a giocare. O ce li hai o non ce li hai, ci vogliono di nuovo i soldi per andare a giocare. È un cane che si morde la coda, vai a finire che incominci a fare delle cose cattive per procurarti i soldi. Quindi anche delle cose illegali, diciamo. Ah, sì, guardi, sì, delle cose illegali, hai fatto delle truffe, o ti vai a vendere il tuo oro, a truffare tua moglie, sembriamo dei burattini che non diamo conto a nessuno, perché io a 30 anni che prendo in giro mia moglie e i miei figli, io mi sento fortunato perché ho preso una decisione di tagliare, perché sennò mi creda, non lo so come si andrà a finire, cioè io non... Mi creda, questa è la mia ultima chance. Chi gioca ai cavalli è, come dire, è un misto. Ecco, è un cocktail, è un frullato di roba. È un minorato, è un incosciente, è un ragazzino, è un dritto, è un fregnone, è un milionario pure se non c'è una lira, è uno che non c'è una lira pure se è un milionario, è un fanatico, un credulone, un buciardo, un pollo, è uno che passa sopra tutto e sotto a tutto, è uno che impiccia, traffica, imbroglia, muore, azzarda, spera, rimore, è tutto per poter dire ho vinto, adesso l'ho fregato a tutti e mo beccale questa. Chi è? Ecco chi è, il giocatore delle corse dei cavalli. Ed è per questo che io chiedo alla clemenza della corte il beneficio delle attenuanti per totale infermità mentale. Era Gigi Proietti, 1976. Da allora molto è cambiato, non più solo corse dei cavalli, ma videopoker, videolotteri, slot machine e scommesse online. Si gioca in modo più facile e veloce e si gioca di più. In Italia la spesa media per abitante è stata di 1.450 euro nel 2012, la più alta al mondo. Per tutto il resto si tira la cinghia, ma per tentare la fortuna no. E più si è poveri, più la si tenta. E il nostro paese, come volume di giochi, vanta il primato europeo, il terzo posto nel mondo. Con i giochi online, tutto è cambiato, diceva Salvatore. Giochi che sono una delle attività a maggiore espansione in Europa, con tassi annuali di crescita di quasi il 15%. I giochi online in Europa hanno normative diverse, ma gli stati, per la dimensione transfrontaliera di questi giochi, non possono affrontare da soli i principali problemi di tipo giuridico e sociale che si presentano. Occorre uniformità di regole anche per evitare l'infiltrarsi di operatori illegali. Per questo la Commissione europea ha lanciato un piano d'azione sul gioco online, norme comuni di protezione dei minori, comunicazione più responsabile, prevenzione della frode e del riciclaggio di denaro sporco. Il commissario al mercato interno Michel Barnier. Mon choix était celui de la concertation. La mia scelta è stata quella della concertazione e di un cammino step by step per raggiungere dei progressi nel quadro di una coerenza del mercato interno e anche di una protezione delle persone più fragili, dei giovani, e ugualmente della lotta, che deve essere spietata, contro il traffico o, in maniera generale, contro le combine degli avvenimenti sportivi. Primo obiettivo, il rispetto del diritto europeo. Secondo obiettivo, rafforzare il controllo e favorire le regole di cooperazione amministrativa. Per assicurare il rispetto delle regole a livello nazionale e a livello europeo, abbiamo bisogno di autorità competenti di regolazione che cooperino strettamente tra i 27 Stati dell'Unione Europea. Ecco perché domandiamo agli Stati membri, quando non sia già il caso, di dotarsi di autorità di regolamentazione con competenze chiare e con mezzi sufficienti. Il 65% dei cittadini dell'Unione che hanno meno di 17 anni utilizzano Internet e dobbiamo accordare un'attenzione particolare a questa fascia d'età. È necessario quindi che l'Unione Europea si metta d'accordo su norme comuni di protezione dei minori. Mi auguro che vengano sensibilizzati innanzitutto i genitori sui mezzi che permettono di bloccare l'accesso ai siti web, che si incoraggi lo sviluppo di principi e strumenti comuni di verifica dell'età da parte degli operatori, di filtraggio dei contenuti online o ancora che si adotti una pubblicità e una comunicazione più responsabile, una sensibilizzazione migliore al pericolo costituito da questi giochi d'azzardo online. Fasse une publicité, une communication plus responsable, une meilleure sensibilisation aux dangers que représentent ces jeux de hasard en ligne. Come si diceva, cresce il volume d'affari del gioco d'azzardo, ma paradossalmente lo Stato guadagna meno. Nel 2012, a fronte dei 90 miliardi di euro spesi dagli italiani in lotterie, scommesse, slot machine, l'erario ne ha incassati 8. Ma calcoli alla mano, se a questi 8 togliamo i 4-5 spesi per il recupero dei giocatori malati, allo Stato alla fine rimane ben poco. Il punto è che la tassazione sui giochi è bassissima. Nel 2005 era al 29%, negli anni è scesa fino all'8%. E le cose sono destinate a peggiorare con i giochi online, che sono i meno tassati in Europa, come ci conferma il sociologo Maurizio Fiasco. La Francia dal 2008 ha ridotto il consumo di gioco del 4%, primo dato, mentre nello stesso periodo noi l'abbiamo esattamente raddoppiato. Secondo aspetto interessante tra Italia e Francia è che sui giochi online la tassazione in Francia non scende mai al di sotto dell'8% del giocato, mentre in Italia c'è una tassazione variabile che in ogni caso non supera il 2%, per esempio per le slot machine online, che sono di recente introduzione, ma parte anche dallo 0,1 per alcune forme di giochi da casinò online. Quindi c'è una differenza molto, molto grossa. Occorrerebbe una maggiore tassazione? Beh, dobbiamo adottare intanto un criterio unico, almeno a livello europeo, insomma, no? Cioè non è possibile che l'imposta sui giochi sia addirittura inferiore alla comune imposta di bollo. Tra l'altro l'avvento dei giochi online ha spostato il consumo di gioco da quelli tradizionali, che erano più remunerativi per lo Stato, a quelli virtuali. Quindi c'è la spesa lorda degli italiani è aumentata, anche a che se ne dica, anche nel 2012. Le entrate erariali hanno subito un taglio molto grosso, tant'è vero che ancora non abbiamo disponibili i dati, quindi c'è anche un'operazione di trasparenza. Un apparato enorme, poco trasparente, che serve sempre meno a risanare le casse dello Stato e con forti costi sociali e sanitari per la collettività, ma soprattutto un sistema che, come abbiamo sentito, andrebbe uniformato a livello europeo per consentire maggiore protezione e per prevenire la dipendenza patologica, fenomeno sempre più in crescita in Italia e in Europa. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo.